Pane con gli avversari tipo danza dei Maori, attraverso rime con lunghezza d'onda come gambe di Naomi. E son così poeta che intesto degli allori, per cui come lo era descrivo ciò che c'è fuori. Sento critiche che il mio corpo agglomera, di chi consuma il pene per la troppa manodopera. Ma invece di bruciare una vita assai monotona, mirate le girl che c'è in me, al contrario di Schopenhauer. E niente pause, se non cadrei tra le teorie di Clark e Samuel. Per cui non perdo un attimo e do vita alle mie liriche, per aggirare i miei nemici come Coromani Annibale. Mi esprimo attraverso le mandibole, mi ispiro al respiro emesso tra una nota e l'altra da Calliope. Vivo intriso di un amore miope, col cuore inciso che bombardano con legno infuocato come a mio. Roba seria, tanto seria, da farti stare bene come un pezzo di Satan. Io non abbandono questa roba in tempo di miseria. Se così fosse avrei il cuore gelido tipo Siberia. E cosa dire della società, vuole mettermi un tappo perché sono la voce della verità. Ma mi fa proposte che se l'accettassi riceverei più cuori io che il Signore con il gospel. Io cado nel peccato per elevare sti babbi, perché senza peccatori non ci sarebbero santi. La punizione di sto peccatore è finire in prigione per la libera espressione come Gramsci. L'essere sincero è immesso nei miei testi, mi si rivolta contro in una mossa del wrestling. Per questo questa scena è patetica, come l'America quando sceneggia Madre Russia per Malefica. Dalle che libera, ma credano se dico che sono l'unico capace di portare il rap a Teramo. Sento risate, ma per Socrate le mie liriche sono innate, perché già mi appartenevano. Io non ho cuore un subwoofer che picchia in petto, che poppa tanto rispetto per ogni mio fratello. E Big Bang con cui combatto il suono anestetico di chi pippa un sacco di merce del palo iberico. Tu non lo sai, ma la gente mi chiama il muto, perché non sia mai, mi esprimo al meglio perché sono guai. In più ripiglio fiato sempre in extremis, così mi posso battere subito con sti scemi. Il cuore batte e si rintocchi, potrete prosciugare le mie tasche, ma non i miei occhi. E il pensiero di lasciare il rap per manco due ore, alla fine si dissolve come un vampiro al sole. Dalle che libera, ma